100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, sul quale ci si è tanto confrontati e scontrati, torna a far parlare di sé. In realtà di più, perché la Corte di Cassazione ieri ha detto che questa norma, ampiamente riformulata dalla legge Fornero, resta in realtà in vita nella sua vecchia versione per il pubblico impiego. Cerchiamo di capire. Nel 2012 l'articolo 18 è stato modificato, prevedendo che in caso di licenziamento senza giusta causa il diritto al reintegro del lavoratore sia limitato ai licenziamenti discriminatori, per esempio per motivi di razza o di religione. Negli altri casi, per il lavoratore è previsto un indennizzo, ma non la conservazione del posto di lavoro. Bene, la Cassazione ha detto che queste regole non valgono per il settore pubblico, oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori per i quali vale ancora il vecchio articolo 18 che, ripetiamolo, prevede il diritto al reintegro. In effetti, il governo ha sempre sostenuto questo principio. Tuttavia la Cassazione, in una sentenza dello scorso anno, aveva detto che il nuovo articolo 18 si applicava anche al pubblico impiego. Ora la Corte ci ha ripensato, ci saranno certamente molti motivi giuridici che giustificano questa interpretazione, però è difficile capire come mai uno steccato invalicabile continui a dividere in due il mondo del lavoro: da una parte quello pubblico ancora iperprotetto e dall'altra parte quello privato che ogni giorno deve confrontarsi con le dinamiche del mercato e della competizione globale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La produzione industriale torna a dare segni di vita. In aprile, lo dice l'Istat, l'indice è aumentato dello 0,5% rispetto a marzo e dell'1,8% su base annua. Si tratta di un dato, forse un po' inatteso, che arriva dopo la brutta battuta d'arresto di febbraio e di marzo, quando l'indice mensile aveva segnato una frenata. Va aggiunto che, secondo il centro studi Confindustria, la produzione resterà positiva anche nella prossima rilevazione, che sarà riferita al mese di maggio. Vediamo come sono andati i settori. Ci sono buoni incrementi per i prodotti petroliferi raffinati, per i prodotti chimici, per gli articoli in gomma, per le materie plastiche, bene anche l'alimentare, e dopo la frenata di marzo riprende la sua corsa anche la produzione di autoveicoli. Meno bene invece la fornitura di energia e il comparto del tessile abbigliamento. La valutazione complessiva però conferma quello che da tempo sentiamo ripetere, cioè che questi numeri non consentono di parlare di una vera e propria ripresa dell'economia. I dati sono positivi, quindi evidentemente siamo in una fase di ripartenza che però a tratti appare ancora troppo debole, incerta e anche discontinua. D'altra parte, i numeri qualche indicazione la forniscono e dicono che se il ritmo di crescita della produzione industriale resterà a questi livelli, l'incremento del PIL a fine anno non potrà mai arrivare ai livelli stimati dal governo, e sarà già un successo stare intorno a una modesta crescita dell'1%. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.